Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ne abbiamo parlato oltre 2 anni fa, quando prese avvio, e questa sera torniamo a parlarne per raccontarvi come si è concluso. A fine 2014, infatti, sono stati pubblicati i risultati del progetto europeo Heat for You, nato per adattare un particolare tipo di pompa di calore alimentata a gas, molto promettente, già ampiamente utilizzata per riscaldare i grandi ambienti, per adattarla, dicevo, alla scala del singolo appartamento. Che cos'ha di speciale questa tecnologia? Intanto diciamo che è italiana, dato che il cuore del sistema, poi ne parleremo, è frutto di 20 anni di ricerca di un'azienda bergamasca, la Robur, a partire, pensate un po', da alcuni brevetti e studi originari addirittura di Einstein. Ma soprattutto questa tecnologia è interessante perché riempie una specie di vuoto in un settore molto rilevante del riscaldamento. Ne parliamo con il professor Mario Motta, che è docente del Politecnico di Milano, ma soprattutto direttore del RELAB, il laboratorio che afferisce al Dipartimento di Energia, che si è occupato di tutte le misure di performance di questa macchina, proprio perché è specializzata in questo lavoro. Buonasera Motta. Buonasera Melis. Allora, sbagliavo intanto dicendo che in qualche modo questa tecnologia va a riempire un vuoto? No, perché di fatto è la tecnologia per il riscaldamento che utilizza in parte energia proveniente da fonte rinnovabile, che risolve il problema degli interventi su edifici esistenti, cioè tendenzialmente su impianti dove la temperatura di mandata è dettata da sistemi di distribuzione esistenti. Quindi dove ci sono i caloriferi? Cioè, diciamo che sostanzialmente la tecnologia della pompa di calore non è adatta ad alimentare sistemi a caloriferi perché sono a temperatura alta. Qui invece c'è una tecnologia a pompa di calore che è in grado di farlo, lo fa in modo efficiente. E siccome i caloriferi e le piccole caldaie in realtà sono la stragrande maggioranza del mercato residenziale, è veramente importante. In termini di impatto sui consumi energetici nazionali o europei, questa novità è molto grossa. Il riscaldamento a gas, ora non le so dare esattamente dei numeri, ma il riscaldamento a gas è di gran lunga il più diffuso. E le pompe di calore a gas si presentano come il prossimo step tecnologico, cioè l'evoluzione della caldaia a condensazione. Ecco, veniamo a qualche numero. Voi avete fatto tutta una serie di misurazioni, così facciamo capire anche dal punto di vista numerico quali sono stati appunto i risultati di questo progetto, che ha portato, diciamolo, a un prototipo per ora. Sì, noi nel progetto di Sforio abbiamo fatto le prove in laboratorio del prototipo, mostrando che i livelli di efficienza sul gas sono significativamente più alti di quelli dei normali bruciatori. Arriviamo a circa 1.3 sul potere calorifico inferiore. Quindi vuol dire il 130%, diciamo, 100%. Di quello che produrrebbe una caldaia consumando quella data quantità di gas. Esatto. Ok. Lo stesso sistema, cioè la stessa macchina, è stata provata in diverse installazioni pilota in Europa, cioè in posti diversi. Con climi diversi. Con sì. climi diversi. E hanno confermato, diciamo, le prove in campo hanno confermato le valutazioni che sono state fatte in laboratorio. Quindi questa tecnologia che risparmio in termini netti può garantire rispetto agli attuali sistemi tradizionali di riscaldamento? Almeno tra il 30 e il 40%. Quindi tantissimo. Cambiando solo la centrale termica è tantissimo. Solamente cambiando il generatore. Tra l'altro, se ho capito bene, non è molto influenzato questo rendimento dal clima, che è un fatto molto importante per questi sistemi che prelevano calore dall'aria, quindi se l'aria è più o meno fredda. Sì, diciamo che a differenza delle pompe di calore alimentate a energia elettrica, cioè le pompe di calore a compressione, l'effetto della variabilità della temperatura dell'aria nel caso di macchine appunto che prelevano energia termica dall'aria, come dice lei, è di gran lunga meno significativo. Non so se riusciamo a spiegare in due parole che cosa c'è di diverso, diciamo, in questa tecnologia, addirittura ispirata da degli studi di Einstein. Diciamo che la pompa di calore che abbiamo utilizzato nel progetto di Furio e che è prodotta da Robur è una macchina ad assorbimento acqua e ammoniaca. C'è da dire che al momento questo è un esempio di eccellenza tutta italiana, però non è l'unico esempio di ricerche in questo settore, certo. Nel senso che sono diversi i produttori in Europa che stanno proprio lavorando alacremente sullo sviluppo di pompe di calore a gas. Grazie Motta. Grazie Melis. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.